i mondi negli specchi. Si racconta che c'era una volta un bambino piccolo piccolo che poteva diventare grande a sua volontà e poi ancora ritornare come prima. Nessuno lo sapeva come lui poteva fare questo. E allora tanti che lo vedevano così piccolo lo prendevano in giro. E quando lui parlava o faceva qualcosa, cercavano di zittirlo, di ammutolirlo, di impedirgli di fare qualsiasi cosa. E comunque non gli davano retta. Questo bambino si chiamava Vanione, ma chi non era a conoscenza del suo segreto lo chiamava Vanino. Vanione lasciava dire e lasciava fare, perché tanto a lui non gli interessava quel mondo dove non c'era nessuna differenza e nessuna diversità tra i piccoli e i grandi, dove non aveva senso dire di uno che era piccolo e che era grande, tanto ognuno cambiava altezza a piacimento, a seconda dei giorni di pioggia o di vento, o a seconda se era di buon umore o di cattivo umore. Ogni tanto Vanione faceva incursione nell'altro mondo, nel mondo dei piccoli e dei grandi, così, tanto per curiosità e per farsi 14 risate. Ma c'era un'altra ragione che lo spingeva a ritornare in quel mondo lì, in quel mondo di scemi piccoli e grandi. C'erano tanti bambini come lui che non conoscevano il suo segreto e che non sapevano come fare per passare da una parte all'altra, e lui poteva aiutarli. Neanche Vanione aveva saputo come fare. Non aveva neppure saputo, tanto tempo fa, che si potesse passare da una parte all'altra e che gli specchi in realtà non sono specchi, ma delle porte, dei passaggi, che negli specchi non ci si specchia né ci si rispecchia, ma ci si vede semplicemente se stessi dall'altra parte. E dall'altra parte ci si vede da questa parte e ci si può parlare e discutere anche. Questo però non è vero per tutti, solo per quelli che conoscono il segreto. Infatti, un giorno che se ne stava tutto spaparanzato e scompisciato e sbracato a prendere il solleone vicino a una roccia, vicino ad un albero, vicino a una spiaggia, che stava vicino a un mare, sentì qualcuno vicino a lui parlare. Chi fosse? Fossero pesci, o sasso, o pianta, o mago, o fata, o altro, non aveva nessuna importanza. Tanto tutti possiamo essere questi, e questi possono essere noi. La voce prima diceva: reale è ciò che fa tre. E la voce seconda rispondeva: non ce l'ho con te, ma puoi venire con me. E ancora: tre per te so come me. Lo sa me ne lì che cosa volessero dire quelle voci, che cosa volessero intendere quelle parole. Vanione, riflettendo, così parlò: girando un giro intero, troverò lungo un sentiero, trovando tre sentieri, girerò i mondi intieri. E infatti così fu, e passò negli altri incidenti di mondi. Naturalmente, tutti i bambini che ascoltavano questi scombischeramenti capivano subito la parola magica che si doveva nominare per attraversare gli specchi. E i mondi, specchiandosi, si catapultavano uno al posto dell'altro, cambiavano continuamente posto e posizione. I bambini avevano imparato anche ad adoperare gli specchi per entrare di qui ed uscire di lì, per uscire di qui ed entrare di lì, per passeggiare di qui, di lì, di qui. A volte occorreva a qualcuno di perdere la tramontana e di non sapere più in quale specchio e in quale mondo si trovasse. Nel mondo degli specchi, che specchiano soltanto, rimasero solo i grandi, i quali cominciarono pure ad uccidersi fra di loro, perché non riuscivano a mettersi d'accordo su chi era il più grande. Allora i bambini decisero di tagliare le gambe ai pochi superstiti e ad altri di tagliargli la testa. E da quel giorno non si sente più parlare di piccoli e di grandi, né di qui né di lì.